sì, ciao, ciao. Un quadripiede per ombrelloni, un metro di paletto, le sto tarando la ringo. E dopo le migliorie fatte, o meglio passare lo stilo, mi dà un i5 sull'1 e un e8 sul 40, ma è perfezionabile. No, guarda che la ringo la vede regolata la bobina, a me, quella specie di bobina che c'è quel cavetto dove c'è una vite, devi spaccare quella, o a destra o a sinistra, a me. Lo stilo non c'entra nulla, eh. Cappantone, però io ho fatto un errore. Siccome questo nuovo tipo di ringo della LEM gli hanno modificato un po' la bobina, anziché essere alta 5 metri e mezzo in totale, è alta 5 metri, io mi ostinavo a mettere lo stilo più lungo possibile ed era proprio fortemente in disaccordo. Adesso invece praticamente va bene, qua ho 1,6 di stazionarie. E il cavalume deve essere regolata con la bobina, si è regolata, non dallo stilo. Ho capito, quello è risultato che l'hanno fatta più corta come antenna. Yeah. In totale 5 metri, però 5 metri contando 76 di solo stilo, cioè dall'isolatore alla punta 4,76, poi 24 cm dello spezzone della base, no? 24 cm, totale 5 metri tondi tondi. Conta che la bobina non l'ho nemmeno regolata, praticamente era in posizione di partenza della bobina, no? E vedo che già funge. Comunque io non la devo mettere qua, io qua sono in via dei Mameli, sono al vecchio QTH, e quando la metterò lì più su, praticamente è più alta di 16 metri dovrebbe essere, sì, 16 metri. Marco! Avanti Claudio! No, io sono passato col 4,40, sì, 9,25 a picchi positivi, 9,30, minchia! Oh, contate che sono con 3 watt, questo omologato a 3 watt. Claudio, l'antenna dovrà andare 16 metri più in alto. Ma sì, davanti a me, capito? Di vero, io via le mamiglie lo vedo là sul tetto. Poi i lavori che ho fatto io adesso sono fenomenali, quindi ho recuperato tantissimo anche in ricezione. Come ti arrivo io lì da te? Qua non c'è smitter, sto usando il Lafayette Ares, quello piccolo come 2 pacchi di sigarette, è sprovvisto di smitter, mi dispiace. No, qua ti andava benissimo, 9,25 con picchia 9,30. Gianni, trova che ho... sto usando il 4,40 adesso, a vedere. Non so come sto facendo, sto provando lo shooter con questo apparato, vediamo un po' come va. Se tu non lo usi con il microfono, allora sei proprio, non te lo dico, usalo, ottima radio, bella, effetto presenza, e porta bene anche sicuramente l'amplificatore, perché adesso non sei assolutamente neanche compresso, capito? Evidentemente è proprio il DM1000 che ti comprime la modulazione collineare. Cavagava, guardate che sia quello. Solo Claudio che non c'ho posto per mettere questo microfono, è un casino, non riesco a fare un posto, ho tutto per strumentazione, di cose, e non c'è posto per mettere questo, capito? C'è un metro nuovo, metto lì, dove dovrei mettere le cose, non so dove ficcarmelo. È un peccato già, devi trovarle un po' vicino per usarlo sempre, perché è un'ottima radio veramente. Ottima radio, no, non te la comprime, bella, chiara, forte, no, non ci stanno problemi. Lo segnale è diventato altissimo da quando ho fatto questi lavori, è eccezionale veramente, così attaccato sì, 9,40 pieno Gianni, tieni conto che tu attaccato arrivavi poco più di 9,30, adesso sì, 9 più 40. Tu hai alzato, hai fatto, hai spostato l'antenna, quindi hai avuto delle migliorie probabilmente. Adesso c'è. Era qua. Mi lì, è il cavo che ho cambiato già, che era completamente cotto. Ma me ne accorgo dalla ricezione, anche dalla trasmissione, ho migliorato tantissimo. E quindi forse anche per quello che sento molto bene a Marco, ma via le Mameli c'ero davanti, lo vedo lassù. Ci vedeva l'antenna di Gianni, quindi Gianni è la buona anima di Guffo, perciò sì, è un tiro di schioppo, ti vedo Marco, ti vedo. Vai per Gianni, Marco. Ciao Marco, sto provando con l'eco, come va? 600, così te lo regoli, perché l'ho regolato col Cobra, proprio l'ho dato appena appena di ecco, e va bene, però a volte ne lo tolgo e lo lascio stare così. Marco, avanti, vieni avanti, quindi che c'è combinato con questa antenna? Qua ieri ho fatto un casino perché mi ero fissato che doveva essere il più lunga possibile, invece anche se si agisce sulla bobina, però lo stilo grosso modo deve essere giusto per la 27. Praticamente adesso ho seguito l'istruzione della casa, cioè in totale 5 metri, cioè stilo più la basetta, e vado bene. Adesso mi dovete scusare, vado sull'1 e sul 40 per fare una taratura migliore. Ma noi siamo qua, non c'è problema, Antonè. Molto a pompa. Vabbè, anche sul 20 le tarature, devi fare 1, 20 e 40, centro banda, banda bassa e banda. Si conferma. Anche io ho avuto un culo già con questo cavo, minchia. Non ho misurato niente, sono sceso, ho fatto calata, piazzato i piedi, attacco. Guarda, ciò. Manco si muove. Proprio manco si muove l'ago dello strumento, dell'MFG, manco si muove, proprio strumento professionale, manco si muove. E dal canale 1 al canale 80 non si muove. Quando attacco l'amplificatore manco si muove lo stesso, proprio ho avuto un culo con un accordo di cavo allucinante. Ascolta, parlo così, mi senti? E allora non ti sento. Ma in casa devo fare questo microfono e cambiare il capo, perché non mi piace, è un po' logorato. Già, ecco l'ultima cosa, quante funzioni. Ma lì io avevo quasi il tuo stesso problema quando ero in via Pascoli, perché la scrivania, se ti ricordi, era piccolina. Quindi cosa avevo fatto io già? Avevo preso due guide, ok? Sotto nel ripiano che c'hai, se ti metti due guide, quando devi usare quel microfono te lo appoggi nel, praticamente le fai un ripiano scorrevole, capito? Un ripiano scorrevole, come per mettere la tastiera del computer. Io l'ho fatto così perché non mi ci stava niente, quindi ho recuperato praticamente lo spazio sotto la scrivania, gli avevo messo due guide, avevo comprato il bricco, Giulia mi aveva fatto un pezzo di tavola giusto dello stesso colore e l'avevo messo così, e lì ci appoggiavo i microfoni che non ci stavano sulla scrivania per poterli usare. Via, ho capito. Quella può essere un'idea, anche che tenerlo in terra, capito? Lo appoggi lì e quando lo devi usare non fai altro che collegarlo e appoggiarlo lì. Quella potrebbe essere un'idea, capito? Un'idea, cappa. Adesso infatti qua io adesso devo iniziare a preparare qualche scorrevole lo stesso, perché il computer me lo porto nuovamente sul lato radio. Adesso iniziano i contest e quindi ho bisogno della tastiera a portata di mano, sarà un casino. Vabbè, qua non risolvo niente, c'è uno scorrevole dove c'è il computer, c'è la parte scorrevole, poi non risolvo niente, Claudio, è tutto l'altezza del microfono. Allora, bisognerebbe rimanere un ripiano, libero sotto il garage, di modo che tu possa mettere il microfono in tutto. Non hai calcolato l'altezza dei microfoni? Io la base che mi aveva fatto Giulia, ho calcolato l'altezza del microfono, quindi l'ho fatto fare in altezza dove ci stanno sotto anche i microfoni. Sono tutti avanti i microfoni qua, però ci stanno praticamente, ho calcolato l'altezza delle radio, quelle basi, quelle, capito? E lì dovevi calcolarti anche l'altezza dei microfoni da tavolo. Ma l'ho calcolato, solo che c'ho l'MV più 5, il tub dell'impianto dello stelba del computer, cioè il sub 8, il midrand, l'MV più 5, più l'alimentatore che alimenta il midrand, c'è tutto il piano completo, capito? È tutto occupation. Buca di sub, già, te lo buono in terra, fai che cosa? Cosa di Nafutti, io ce l'ho in terra, capito? Ricordo che occupa sacco di spazio, cerca di fare. ci metti l'altro microfono, perché è un peccato non usarlo. Questo qua è fatto per la voce mia, vero? Ah, questo è bello, mi sembra che avevi già fatto sentire, te l'avevo già detto un'altra volta. È bella, bella modulazione, timbrica con effetto presenza, i medio alti belli compatti, bella modulazione. Vecchia era è questo qui, lo Schuller, sulla ceramica come il tame, eccetera eccetera, i microfoni vanno molto bene, se vedi come è greso dentro, come è fatto con le alette, le cose, però funziona, spunge. Va bene, va bene, sicuramente lo faccio andare ancora di più io con la mia modulazione, però va bene, va bene, sono degli ottimi microfoni, quindi ti consiglio di farti qualche spazietto per poterlo usare. Adesso vediamo cosa si può fare, cosa si può fare per metterlo in atto. Se posso abbassare appena appena questo ripiano, trasporterò sicuramente e l'ho ritrovato, che però mi piace qua perché ce l'ho portata di mano, lo dovrò trasportare giù. Senti, ma questo subito perché l'hai messo lì? Ha un significato? A cosa ti serve? E tu gli su e te lo metti in terra, lì con lo spazietto metti il microfono, no? Ce l'hai lì davanti, già lo senti lo stesso, quando metti musica o la cassa la senti lo stesso. Io ho due casse, lo stesso tipo, un sub che fanno da colonnina esterna e ce li ho in terra negli angoli, proprio tipo come casse per la musica, e mi fa l'amplificatore tutta la stanza, quindi mi sento magnificamente bene, capito? Però sono in terra e se me lo dovessi mettere davanti mi prenderebbe un sacco di spazi. Capo, ma va bene, poi quando vai a fare la pulizia mi dà fastidio, capito? Arianna in particolare per la casa dell'hotel mi ha fatto fare dei sottocassa a carrello con le ruote nascoste e quando deve fare pulizia li sposta, figurati se vuole rimettere il sub in terra. Anche qua la fanno la pulizia, lì già, noi non la guardi, no, li pulsi, la sposti leggermente, le passi l'aspirapolvere, quello che usi, qua questa stanza la fanno ancora con l'aspirapolvere, lo folletto, mi sposta sempre tutta l'aria, Anna, non è che le passa dietro, però purtroppo è così, ti crei quello spazio che ti serve per usare il microfono. Sicuramente riesco a dover togliere tutto, fare un lavoraccio immenso, però va bene, si può fare. Sì, si può fare, ma quel lavoraccio già. Se vieni qua che solamente cosa c'è di cavi? Cosa c'è di cavi dietro le scrivanie? Che non li vedi, e per terra non c'è assolutamente niente, ma dietro le scrivanie ci sono rotoli di cavi, di alimentazione, non tanto di antenne, ma di alimentazione per alimentare tutto che fa paura. Eppure ogni tanto lo facciamo, con l'aspirapolvere, piano piano, anche dietro, sollevo i cavi, col puntale e aspiro tutta la polvere, la lana che si forma, tutte queste cose. Purtroppo bisogna farlo. E spostare tutte queste radio, non hai idea dove lo gaggiano di forza ogni volta. Soprattutto gli amplificatori che pesano 25 kg l'uno. Bisogna pulire, non venire da là. Piano piano ti organizzi. Però quel buff, quel come si cazzo si chiama, toglilo e dai spazio a un microfono che usi. Sì, Claudio, quanto vuole per spostare il coso, come si fa a te? 150 euro mi ha chiesto, voglio tu e tieni Dio, l'ho lasciato via a Pasqua, non mi ha fatto niente. Ma è un controsenso, avevo pagato 500 euro montato, tutto, non è chiedi 250 per farmi un trasloco, quanto mi costa questo, senza poi tutto il casino che c'è da fare, tappare i buchi, rifare, tanto vale spenderne altre 250 in più e metterlo nuovo da zero, non conviene, anche perché devono fare il vuoto. E attenzione, perché quando fai questo trasloco così, questo me l'ha detto Vannino una volta, c'è il pericolo che poi non torni più com'era, capito? Perché lo devi svuotare, ricaricare, cambiare le valvole, cambiare tutto, è un casino, Sì, sì, è vero. Perde, può perdere anche il gas, dai. Può scoppiare, te lo svuotano apposta, perché può scoppiare, non è logica. Allora non si può smontare, no, se non lo svuoti. Come fai? Lì c'è un sistema di gas, bisogna svuotarlo, me l'ha spiegato Vannino come fare, ma io non ci ho mai provato, non me ne fottia nulla, però è molto pericoloso. Bisogna svuotare tutto, fare il vuoto, staccarlo, poi ricaricarlo, tenerlo mi sembra 12 ore a una media, a un limite minimo per far sì che il gas si riempia nuovamente tutto, è un casino, guarda, conviene durare la piazza e buh. Sì, ma infatti non conviene spostarlo da dove, a parte che dura la notte da Santo Stefano questi condizionatori, fai tutto un casino e da cui ti durano poco. No, ma no, va, non conviene, credimi. Ci sono, io l'ho visti da. Non so se Città Mercato o no, al Bricomen in offerta. 350 euro della Toshiba. 350 euro della Toshiba. Fai che un amico, se trovi un amico che te lo piazza, che ti fa l'impianto, ti prenda altri 200 euro, hai sempre fatto un terminalotto perché ce l'hai nuovo e sai che non l'hai smontato, capito? E c'è il ragazzo di Alessandro, della Fioriato, che lo fa. E allora che è un problema, 350 euro, 100 euro in più, te ne compri un altro, magari se ti serve più basso, anziché da 12 o da 9, lo prendi da 6, capito? Io voglio prendere uno qua per la stanza dove c'è la radio, da 3, ci sono quelli piccoli da 3, però alla fin fine non conviene neanche, perché devo mettere la macchina fuori, sotto la finestra, fare la canalizzazione per il recupero dell'acqua, ogni tu ma vai normale, ho messo l'elicottero e funziona lo stesso. Gira l'aria a casa, quello lì a me non mi piace, gira l'aria a casa, non la gira fresca, a meno che sia condizionata, la gente te la fa girare fresca. E gli dovrà reagire un po', già, è sempre ventilata questa stanza, io ho la zanzariera, la bugibile è sempre tutta aperta, perché quando c'hai più di una radio accesa fa caldo, e quindi già gira l'aria e la fa girare, dai, non la tiene ferma, la fa girare un pochino. Giusto un refrigerio, proprio una cosettina tanto per far girare l'aria e basta. Certo che hai ragione tu, non è aria fresca fresca, però non è neanche calda, dai, va bene. Un po' di terrore te lo dà, tutto lì. Ma c'avevo quel coso pinguino, ve lo portate, era sempre in mezzo alle medie, con questo tubo fuori, faceva un casino, ma quasi ho bucato tutto. Tanto mi fa un po', siamo già a luglio, ci abbiamo ancora agosto, settembre inizia fresco, un altro mese di sacrificio e poi già si sta bene. Perché c'è? Insomma, registrate perché solo che se Dio vuole gli estati ce ne saranno altri, dovremo affrontarli, quindi sempre meglio prevenire che curare. Avanti, break. Buonasera, circolari. Dalla città del grande Carraggio senza acqua. Qua. E cosa vuoi da me, che ti porti un bidone? Cosa vuoi, Sandro, che ti porti un bidone? Ho già provveduto. E beh, avrei un disabortante, Antone. Come mai non c'è acqua, Sandro? A quanto pare c'è un martirio. Da dove arriva questo batterio? Porto Torres è servito da coso lì, niente, quindi neanche il fiutino c'è acqua. Ui, ui, ui. E noi se vogliamo bere, beviamo, ma c'è problema, non ci bisognerebbe solo acqua. Ma infatti, basta lavarti con l'acqua minerale. Sandro, altro che scherzare, quando non ce l'hai non te ne accorgi, ma quando lo vedrai, io, Sandro, ci sei? E questo è un fantasma, eh? Sicuramente hai ricevuto qualche telefonata. Antonello. Senti, tu mi per Antonello, ma non era la sua voce, forse la nipote. Antonello. C'è la nipote a casa sua, infatti stasera mi ha detto cosa fa, se mi potevo fare quel lavoro perché c'è la nipote, poi invece me l'ha fatto lo stesso, va? No, va bene già così, organizzati veramente, lo sai, io quando dico le cose le dico perché così, con sincerità. Organizzati, togli quel SUV lì, bogazzino, mettetelo da qualche parte, mettetelo sopra la cosa, l'armadietto che hai fatto, il mobiletto, fai qualche cosa, ma lì dai spazio col microfono perché va bene. Questo l'ho restaurato io, questo però tutto restaurato, ripristinato, montato, pulito, fatto, riverniciato e lucidato, tutto fatto da me. Ci sono, stavo dicendo, Sandro, come mai, cioè, vi hanno avvisato, cosa è successo praticamente, perché voi siete serviti da Montella, è la stazione di pompaggio dove arriva l'acqua normale dal Cominas, quindi non ho capito perché l'ordinanza è solo sul Porto Torres, che cosa è successo? È successo, diciamo, che qua dentro ci è uscito questo annuncio che l'acqua attualmente non si può usare per alcun motivo, in quanto consiste che c'è un batterio e stanno provvedendo, diciamo, alla florazione, non lo so, in effetti, insomma, al momento non si può usare l'acqua si può, diciamo, prendere e ci sono questi attributi di leoni. Anche Leoni è sceso in campo con le sue autobutti, per carità. Per carità, che disastro questa buona, per carità di Dio. Ah, io sono riuscito a vedere la voglia. Sandro, ma con cosa hai aggiunto? Con la sorpona o l'autobotte che è in acciaio? Sandro, invece sta parlando della moglie. Questa è una bella battuta, attenzione che no, abbia portato l'acqua con le cisterne dell'autospurgo invece portarle con le cisterne del portabile. Quindi le colleghi stanno lavorando con loro in questi giorni. Chi? I colleghi portano l'acqua nelle case, lo usano anche per cucinare quando è così. Boh, hai visto. Cioè, va bene, no, io non sapevo niente, di solito mio fratello mi informa, non mi ha detto niente. Non ho detto niente, cosa vuoi ti dica? Non lo so, ogni tanto ne salta fuori una, so che stanno lavorando al Covina, se per questa alga che c'è in superficie, ma che fosse diventata batteriologica non sapevo niente. Ma adesso il microfono l'ho messo sopra la, diciamo, lo ripiamo quello che è estraibile, l'ho messo lì, mi senti lo stesso? Rientrato. Ehi, Marco, ancora meglio, ancora più forte stai arrivando già. Avanti, Marco. Rieccomi. Allora, qua posso ritenermi soddisfatto perché, bene o male, sull'1 c'è un E5, un E6, bene o male ho trovato il punto di accordo. Anche i segnali arrivano più forti. Il contatto è che è un metro dal suolo, è solo un metro. E quindi alzandola con 6 metri di palo, a voglia si accorda. Queste stazionarie che tu vedi sullo strumento sicuramente sono di riflesso, perché un'antenna che sia con radiali o senza radiali, con un piano di massa un metro è insufficiente, quindi sicuramente ciò che tu stai vedendo sullo strumento è di riflesso. Quando poi la porterai in alto vedrai che la diretta cambia e il riflesso ne hai molto molto meno. Ma ieri mi stavo dannando, mi sono anche sentito male perché c'era più caldo e qua mi stavo, sai quanto ti prende la frutta, la rabbia, su di, e ieri insomma ero un po' così tirato sulle gambe, come giocatori con l'Italia e Spagna. Lascia perdere Marco, ho cambiato il cavo in due riprese, ho messo il cavo nuovo anch'io e sono salito che erano le 8 e stavo bene. E siccome trabassare l'antenna, cambiare cavo, saldarmi PL, fare la discesa eccetera, sono fatte le 10:30, 11, ha giumulato tutto, mi dicevo varato, l'ho ripreso la sera alle 7 perché era una cosa allucinante, mi si stavano attaccando le ciabatte al cartone catramato, che poi io ce l'ho, c'è il cartone catramato, quindi quella guaina grossissima che poi è rivestita in alluminio, ma non c'era niente da fare, mi stavano scaldando i piedi, il sole che mi ha cotto anche le orecchie, e quindi ha giumulato tutto e me ne sono sceso. No, non si possono fare certe, mi guarda, l'ora bella per fare i lavori è sfruttare dalle 8 alle 9, 9 e mezza, a quest'ora, ecco, quest'ora è ideale per fare un lavoretto di un'ora sul tetto, proprio quest'ora è magnifica, ma l'ora di punta adesso lì perché ti viene qualche accidente. Bisogna farle o all'alba questi lavori, al tramonto. Vabbè, per adesso bene così. Chi altro mi può dare un controllo? Gianni o altri? Però intanto se ti sente Porto Torres, Marco. Sandro, lo senti a Marco? Buonasera, non sono avanti. Attenzione, Porto Torres dalla stazione Condor, cambio. Senti, sa. No, negativo da parte mia, non riesco a soccorrere mai che cosa, ho cambiato completamente. Santiago 9, Radio 5, ottima radio. Ma io o no? No, Sandro non ti ascolta proprio, se lui che arriva a 9, Radio 5, 9 più, Radio Super 5, tu sei 9:30 Marco, 9:25 con picchi a 30, come segnale tu sei alla grande. Sì, alla grande. Avanti, Sandro. Ok, Claudio, dai, ho cambiato un attimino perché c'è qualcosa che non funge. Devo controllare qualche spezzone, qualcosa. Va bene, dai. Infatti, il segnale non è il tuo. È leggermente più basso. Di solito arrivi 9:05, 9:10. Sei 9, proprio 9:99. Dovresti controllare qualcosa. Gianni? Sì, ecco, stavo cercando il microfono, scusa, ho buttato a usare l'altro. Dimmi. Vai per Marcolino. Avanti, va, buonasera. Ciao Gianni, dimmi un po' come va qua. 4 watt comunque, non 3, ho controllato, 4 watt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, va bene, 9:20, 9:25 quasi. Radio 5, va benissimo. E la mia radio ti piace? Pochino, non perfettamente pulita, forse un po' troppo amplificata. Fino avanti. Prova così, guarda. Capibile, però c'è sempre qualche artefatto un pochino di fondo, che non capisco cosa sia, che qua sento rumori di tutti i tipi qua su. E questo è un microfono molto sensibile, ascolti tutto, quello che c'è in casa, ti rumori attorno, e quello ti deve, è un calcolo che devi fare perché è molto sensibile la capsula. Ma non sarà una static, Rod Devil? No, negativo, questo qui è uno Shure da cavo. Ah, certo. Ma Shure è quello nero col tasto rosso? No, negativo. Nero col tasto rosso, però quello non è un tasto, ma è un potenziometro, diciamo, del volume e delle cose. Ok, no, perché io quello fiume lo sentivo 20 anni fa su altri apparati che uscivano normali, con quello erano giusti, sembrava una modulazione effetto presenza, però lì un pochino metallica, ecco, da Claudio piaceva molto, e mi pare per apparire. Già, e qua parliamo di ricezione, attenzione Marco, lì tu stai ricevendo con quella radiolina lì, con una colonnina, tanto un pacchetto di sigarette, qua io ho una ricezione col 440, altoparlante esterno di linea, e quindi la modulazione è molto bella, devo dire che è molto bella, non poco, molto bella, bella corposa, bella piena, e non sento nessun rumore di sottofondo. No, magari qua, non sono rumori però nella sua trasmissione, sempre un rumore qua di macchine, c'è un casino, capito? Ok, va bene, sono contento. Come è fatta a piazza l'antenna? Vediamo se le staffe e tutto. Ora, sto scendo, sì. No, già, questo io sono su un terrazzo più basso, quando la monterò su sarà 16 metri più in alto. Ovviamente stavo molto alto a 40 lascio per quello sito, perché non avessi molto il vento, te lo sto dicendo Marco, è molto debole come antenna. Ehi, vabbè, già li mettiamo tutte le nastrature, come si chiama, autoagglomeranti eccetera, nei punti critici. Prego. Su quel terrazzo in cui la metterò, 6 metri non ne siano molti, 4 è poco, sai, perché io devo mettere anche l'antenna TV sullo stesso palo, e l'antenna TV troppo bassa non la vorrei mettere, perché si trova poi, insomma, dietro alle altre antenne TV del palazzo, capito? Ecco. Buonasera, tutta la notte, ecco la buonasera, Falchetto dalla città di Sassi. Ui, Falchetto, come stai, tutto bene? Tutto bene, grazie a Dio, tutto bene, sì. Meglio così, lavoro. Lavoro mi sta ammazzando, Gian, mi sta ammazzando. Vabbè, ok, meglio che ci stia per là. Ah, quello sì, quello sì. Brutto fare firme. È brutto firme stare firme. Infatti io proporrei una cosa, va a mania e dopo provaci tutti quanti a quadrato a prendere un po' d'aria. Come si fa, invece sono formato tutta la campagna. Ciao, le pare comunque che a te, non so chi fosse un altro amico, comunque buonasera, perché tu la città di Sassi. Ciao, Dento, ben sentito, buonasera. Sì, già, infatti aspettavo il microfono per andare a cenare, e ci sentiamo dopo. Beh, sentiamo dopo e poi ci vediamo, se vuol uscire anche Marco, non ci stanno problemi. C'è Sandro che stava chiamando, metto il microfono a lui e io vi chiedo permesso di quel Rips. Ci sentiamo dopo che vado a mangiare un boccone. Sandro, riprendi. No, vado a mangiare anch'io. Ok, dai, un saluto, ne approfitto anch'io, signori. Ciao Falchetto, doppia patacca sulle spalle, dai. Le faccio che c'ho un po' di quarella qua. Ok, ciao Sabrina, dai, come ho cambiato la doppia patacca sulle spalle, dai. Buona carica a tutti, dai, l'amico, non so dove stia modulando, perché non ho capito chi sia. Se sempre giustamente, se si può, punto interrogativo. Ciao Falchetto, ben sentito, Marco da Sassari, mi puoi dare un segnale radio, grazie. Qua il passaggio lo sto guardando, Marco. Ecco qua, canale 14 AM, 1-2-3. Allora, Lancio 3 e qua Santiago di 9+30, una radio super 5. Potresti controcambiare il mio segnalito? Qua lo farei, ma non lo smitter, non c'è smitter qua, la radio è super 5 come sempre comunque. E un attimino così saluto anche gli altri. Sono in Viale Mameli con una postazione, diciamo, provvisoria, con una Ringo montata sul paletto di un metro, quindi sono proprio con batteria e tutto fili volanti. Allora, Ciao Gianni, ben sentito, fai buona carica, lo stesso per Claudio. Ci sentiamo la prossima, non credo salirò che sono veramente un po' stanco, di là. Ma non mancherà occasione, dai, riprendi Claudio. Ehi, a Marco, guarda con questo se vado meglio con questo microfono. Eh già, cosa dirti? Non lo so, ti devo ascoltare da casa. Ma tu sei in macchina? Oh, ok, controllami la radio, vedi come sta andando. Sì, la radio mi sembra molto ottima, la verità. La radio rispetto al primo passaggio è migliorato. Vabbè, io vi saluto, se vuoi venire perché siamo lì, già lo sai. Ci troviamo tutti, ci beviamo una cosa, una chiacchierata e poi ci torniamo a casa. Sì, ben volentieri, Gianni, ma purtroppo ho tutte le lampadine del vespone fulminate e non le posso muovere. Poi c'è una stanchezza che ne pare sette. Io vi ringrazio del vostro invito, la prossimina farò di tutto per farmi trovare, non c'è problema. Io stesso vi saluto, guardo la buona carica, un po' tutto e ci si riascolta magari più dopo se coincide, perché tu mi stai ascoltando, comunque è tutto acceso qua. A parte, va bene. Ok, dai, buona carica a tutti, dai. No, perché stamattina ho visto ovviamente un'antenna nelle mie vicinanze e pensavo che fosse o un uomo o vico che sia. Però no, non mi modulavo segno evidente, ma è roba recente, è roba nuova. Ma no, sarà qualche accudito. E qualche accudito, ma a noi ci farebbe piacere già se questo accudito entrasse in frequenza, per cui va bene, dai, ha detto questo. Come Dio vuole, fate la buona, buona carica. Ciao, papà, anche dai. Buona carica anche a te quando la farai, per gli altri amici. La saluto tutti cordialmente e poi ci sentiamo. Ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Appagata, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3, prova. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Ora, ora. Chi c'è? Chi c'è? Alessio. Allora, guarda con lo shooter come va la modulazione. 1, 2, 3, prova. Ora. Sì, sì, Alessio. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora. Cuscelli, cuscelli, già, cuscelli. Aspetta, c'è le cuscelli. Fioroci. Ma chi sei, Alice? Oh, mi sembra dove è entrato, non so se ci stia ancora. Chiaro, sono. Oh, di nuovo, ciao a tutti, dai, sto togliendo tutto che qua fa buio fra poco. Ok, ciao Marco, è migliore del posto.